gonna kill you. Something's happened. I just met a man, you know? And he was something special. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, ma si schiarisce la voce e ricomincia il canto. E voglio bene assai, ma rando tanto bene sai, è una catena ormai, che scioglio sangue di te bene sai. L'opera in delirio. Vide le luci in mezzo al mare, pensò all'inutile in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire d'una nuvola gli sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come... Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e gli credetti di affogare. Prima gli credetti di affogare. Se voglio bene, ma rando tanto bene sai, è una catena ormai, e scioglio sangue di te bene sai. You haven't touched me before. Per me è meglio un uomo, un ragazzo. Potenza della lirica, dove ogni dramma un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare anche un altro. Caro, io conosco Carizzoletto. Ma due occhi che ti guardano così vicini, veri, fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche lì non ti là in America. Ti volti e vedi la tua vita, la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, si sentiva già felice e ricomincio il suo canto. Se voglio bene assai, ma rando tanto bene sai, lei vedo tu che ti farà una catena ormai, che se voglio bene assai, ma rando tanto bene sai. Lui andava a scuola, non è una catena ormai, ancora la mano. Thank you. best man who sings Black Lady. La voce.